Non eravamo chi donna che a me fa un cuore di gioia scianti, perché la moglie a pensieri a me fa un giovane di veglie, se non mi leia niente ne leia, ma non c'è non mi chiesi, già non fa il sogno, ma mia moglie a sedere un cuore di fuori. Dunque smettesti il coraggio che la pretegna per la mi, ma se restessi gran parraggio che la mi metra e nubi, cortesi saggi, clero visaggi, neanche musa esprimera non vi, fu ma ve spessa al cor le raggi, si de voi non ave smersi. Dove la morchi tomma che a me fa un cor di gioi scianti, perché la moglie a pensi a me fa un giore di me, se ne murei a lì, a mamma c'è non mi chiedersi, già non fa il voglio, Non fa il foglio, ma mia moglie, se ne muovo di fuori. Non era morto,